Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Dario Scotti e il gruppo Riso Scotti. Sei generazioni e una storia lunga oltre 150 anni. Di Adriano Palazzolo. La storia di oggi comincia oltre 150 anni fa a Morimondo, una frazione di Villanterio in provincia di Pavia, dove un agricoltore, Pietro Scotti, avvia una piccola riseria. 30 anni dopo, siamo nel 1890, suo figlio Ercole allarga l'impianto su una superficie complessiva di 1200 metri quadrati. Lo scenario è quello tipicamente lombardo di fine 800. L'attività consiste nella raccolta del riso grezzo dei contadini della zona, nella lavorazione del cereale e nella sua vendita. Così nasce una delle aziende più importanti per il settore, Riso Scotti. E a raccontarci cosa è accaduto dopo è il trisnipote di Ercole Scotti, Dario Scotti, oggi presidente del gruppo. Poi da Ercole Scotti si arrivò a mio nonno, e si parla dei primi anni del Novecento. Il nonno si chiamava Angelo Scotti, il quale Angelo Scotti diede un'impronta semi-industriale all'attività di famiglia. Guarda, mio nonno cominciò a fare il risiero prima della Prima Guerra Mondiale, quando era ragazzo. Poi andò in guerra, fece la Prima Guerra Mondiale, la fece da motorista sugli aeroplani di allora. Finì la guerra e si diede anima e corpo a questa attività risiera, che sviluppò in prima persona fino agli anni 50 circa, da solo. L'azienda, dopo la Grande Guerra, passa indenne anche il secondo conflitto mondiale. Angelo Scotti è troppo vecchio per tornare in guerra, mentre il figlio Ferdinando, padre di Dario Scotti, voce narrante di questa storia, è ancora troppo piccolo. Così si arriva agli anni 50. Nel 51 mio padre aveva 20 anni circa, nel 50-51 aveva finito la scuola e cominciò a lavorare col papà, con nonno Angelo. E l'azienda continuò a svilupparsi, a crescere, e divenne il marchio Scotti un marchio forte in alcune zone dell'Italia. Particolarmente noi eravamo forti nella Liguria, in Liguria, eravamo forti nella provincia di Sondrio ed eravamo ben presenti nella provincia di Como. Tutte cose strane. La famiglia Scotti continua nella sua espansione. Nel 79 entra in azienda Dario Scotti al fianco del padre. Gli anni 80, con l'arrivo della grande distribuzione, danno un'ulteriore spinta alla crescita del marchio, ma il punto di svolta arriva nei primi anni 90, con un'intuizione che, come ci viene confessato, non è un'idea del tutto originale. Il primo fatto veramente significativo della nostra azienda forte fu quando noi inventammo il sottovuoto. Il sottovuoto oggi è scontato. Allora il sottovuoto era una rivoluzione, perché nessuna riseria faceva il sottovuoto. Noi nel 92 cominciamo con il sottovuoto. Cominciamo nel sud Italia, poi capimmo che funzionava e lo vendemmo in tutta Italia. Se devo essere sincerissimo, c'era una piccolissima riseria che vendeva qualche chilo di riso col sottovuoto e la cosa ci piacque, ci sembrava una cosa intelligente. Il riso dava dei problemi in quegli anni perché tendeva a infestarsi. Allora c'erano pochi supermercati, c'erano i grossisti, i negozi, insomma il riso stava in giro tanto tempo prima di arrivare dal consumatore. Allora l'infestazione, cioè l'arrivo delle farfalline, prima i vermicelli e poi le farfalline, era un'evoluzione naturale del prodotto. Col sottovuoto c'era la possibilità di blindare, di bloccare assolutamente la qualità, la freschezza del prodotto quando veniva pilato, e quindi consegnarlo in modo perfetto sui piatti dei consumatori. E noi cominciamo col sottovuoto e fu un grande successo. Un grande successo, possibile solo correndo un grande rischio. L'investimento che fa l'azienda per adottare la tecnologia necessaria al sottovuoto, infatti, è a livello economico una pericolosa scommessa. Quando noi facciamo il sottovuoto, facciamo un passo veramente molto coraggioso. Noi fatturavamo allora 20 miliardi di lire e mi ricordo che noi investimmo tra impiantistica circa 4 miliardi di allora e in comunicazione su 2 anni altri 4 miliardi. Investimmo una cifra spaventosa, perché investire 8 miliardi per un'azienda che ne fatturava 20 fu veramente un passo al limite del buon senso, della tranquillità, della sicurezza. Però io ero molto giovane, ero coraggioso e quindi noi facemmo questo passo. Cominciamo con un impianto piccolissimo che faceva un tipo di riso e poi a quel punto maturammo, però con grande condivisione. Fu una mia intuizione, però fu una decisione condivisissima. Mio padre, che era sempre stato restio, sapeva una certa età, non aveva voglia di prendersi mal di pancia, però per il sottovuoto mio padre disse: dai, buttiamoci, proviamo a fare il sottovuoto. E fu, io ebbi quindi la possibilità economica, l'appoggio di papà, l'intuizione mia per fare questo che fu un passo fondamentale per l'azienda. La scommessa risulta vincente e l'azienda diventa la prima in Italia a proporre il riso sottovuoto. Nei primi anni 2000 però c'è una battuta d'arresto per l'arrivo nella grande distribuzione delle catene dei discount, a cui il gruppo Scotti reagisce con l'innovazione. Quando ti accorgi che di colpo arrivano i discount in Italia, che arrivano le private label, che il tuo mercato delle marche passa da 10 a 5, questo è un momento molto forte per un imprenditore e non puoi farci nulla. Quello fu sicuramente un momento difficile e ci comportò delle forti riflessioni. Come affrontavamo quel momento? Con una forte innovazione, cercando di fare delle cose che non potevano essere vendute come private label, perlomeno per un po' di tempo, e neanche dai discount. E quello fu un momento molto molto forte. Quello fu un momento di forte rifondazione. Noi avevamo fatto grandi investimenti, ci accorgevamo che il nostro mercato stava cambiando, ma riuscimmo a fare bene. Però a quel punto noi capimmo che dovevamo continuare a essere innovatori. Allora noi fummo quelli che inventammo la pasta di riso, fummo quelli che inventarono l'olio di riso. Fummo quelli che portarono in Italia le gallette di riso, fummo gli inventori in Italia del latte di riso. Cioè abbiamo continuato a fare innovazione, ancora adesso stiamo facendo innovazione. La diffusione del marchio deve tanto anche a un'azzeccata campagna pubblicitaria che ha trovato nell'omonimia con un famoso personaggio televisivo la sua chiave vincente. Una serie di spot in cui uno dei conduttori più amati della TV rispondeva al telefono del dottor Scotti. Il ciclo con Jerry Scotti è un ciclo eccezionale, fantastico, ha dato moltissimo alla nostra azienda, sono convinto che noi abbiamo dato moltissimo a lui. Poi, come tutte le cose belle, devono finire nel momento giusto. Non è facile farle finire nel momento giusto, però sta alla capacità dell'azienda e del testimonial di fare l'interruzione quando va fatta. La nostra azienda stava cambiando, stava deviando un po' come impostazione, stava buttandosi nel mondo salutistico, nel mondo dei giovani, nel mondo della salute, e anche Jerry Scotti stava prendendo delle sue strade che potevano non essere assolutamente in sintonia col nostro percorso di azienda. E allora, tra amici, tra persone di buon senso, tra persone consapevoli che hanno fatto le cose molto bene insieme, ci siamo lasciati restando grandi amici. Io continuo ad avere un bellissimo ricordo di quegli anni e auguro tanta buona felicità e tante belle cose a Jerry Scotti. Oggi Riso Scotti distribuisce i suoi prodotti in oltre 70 paesi nel mondo, di cui la metà extraeuropei. Nei suoi stabilimenti ogni anno vengono lavorati quasi 2 milioni di quintali di risone grezzo e il gruppo ha chiuso il 2015 con un fatturato pari a 236 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto all'anno precedente. Tutto questo è reso possibile dal lavoro di Dario Scotti, che ci sta raccontando questa storia, e dall'arrivo in azienda della sesta generazione Scotti. Le mie figlie sono molto importanti per il mio ruolo di padre, perché la figlia è continuità per un genitore, ma anche molto importante per il mio ruolo di imprenditore, perché a volte si trascura questo aspetto, ma le aziende vivono un momento di arrivo di difficoltà o di sviluppo quando arrivano le nuove generazioni. Ho tre figlie che sono diverse, quella che è assolutamente inserita, perché è la prima che ha incominciato, è Valentina, la quale sta occupandosi di una fabbrica in Romania, una risiera in Romania, e sta portando avanti il progetto Risotterie in Italia. Poi la seconda che si occupa del mondo bio all'interno dell'azienda e all'esterno dell'azienda, e poi ho la terza che ha appena cominciato e che sta facendo da assistente alla prima. Dario Scotti, insieme alle tre figlie, ha un'idea ben precisa della nuova direzione intrapresa dal mercato per i prossimi anni e per questo motivo gli sforzi economici del gruppo si stanno concentrando in investimenti e innovazioni che guardano alla salute del consumatore e all'attenzione per uno stile di vita sano per l'uomo e per l'ambiente. Oggi il consumatore sta cambiando totalmente, consuma meno di prima il latte da mucca e tutto quello che attorno al latte da mucca, quindi formaggi, yogurt, gelati. Oggi il consumatore cerca di non mangiare tanto prodotti con glutine, cioè oggi non è più solo il celiaco che rifiuta il prodotto con glutine, ma il glutine non è ben accettato da una grande fascia di consumatori salutisti. L'altro mondo in espansione è il mondo dei cereali cotti e dei legumi. Sono tutti mondi molto vicini a quello del riso, al latte di riso, a tutto quello che ruota attorno al riso. Se noi saremmo capaci di galoppare questi filoni salutistici con un'impronta fortemente riso, quindi da non defocalizzarci, da non deviarci dalla nostra missione base, abbiamo possibilità di fare cose buone. Però questo vuol dire investimenti di persone, investimenti in impianti, investimenti in comunicazione. Insomma, uno sforzo molto forte. Però io penso che un'azienda debba avere la capacità, il coraggio di fare innovazione continua, che è sempre stata fondamentale e motivo di successo per le aziende, da che mondo è mondo, ma che oggi sono condizioni di esistenza, perché in un mondo che si evolve, se tu non ti evolvi, non cambi con lui, ti trovi spiazzato. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.